Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Voglio fare qualcosa di diverso. Siamo una band e le band questo fanno album tour, album tour. Beh, mi serve un break. Sono stufo. Che stai dicendo, Freddy? Quanto ti hanno pagato? Dimmi quanto ti hanno pagato! 4 milioni di dollari! Freddy, siamo una famiglia. No, non lo siamo! Hai bisogno di noi, Freddy. Più di quanto pensi. Non ho bisogno di nessuno. La nostra mano è composta da 5 dita e nessuna di esse è uguale all'altra, poiché ciascun dito ha una funzione propria e peculiare. Se ne prendiamo uno, singolarmente, qual è la sua forza? Pochissima. Le 5 dita da sole sono deboli e fragili. Ma quando queste stesse dita si stringono insieme con la volontà di colpire, di esistere, di vincere, allora queste 5 dita, così trascurabili individualmente, assumono una forza devastante, la forza di un pugno. Il collettivo prevarica l'individuo, l'insieme eccede la singolarità, uniti si vince. Ma non è sempre così. Ci sono cose che ogni dito può fare da solo, separatamente. Indicare, indossare un anello, mandare a fanculo. Abbandono, scissione, dissoluzione. Oggi Polaroid diventa vado a vivere da solo, alla scoperta dei solisti usciti dal gruppo. Vado a vivere da solo. Anno dopo anno, canzone dopo canzone, contrasti, fratture, ritorni, addii, in una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi. Inizia Polaroid. Io non voglio stare in un gruppo di vorrei ma non posso rinnegati. Formerò una mia band con cui darò il via a una rivoluzione, ok? E voi sarete un nome sconosciuto sulle mie chiappe storiche. giovane di storia della musica. 1984, Montserrat, Mar dei Caraibi. Manca solo un giorno all'incisione del nuovo album e Stuart Copeland, il batterista dei Police, è al telefono con un giornalista del Times. Provare con i Police è come fare il bagno in una vasca di diamanti affilati come rasoi, racconta. Asciugarti con un mazzo di rose piene di spine e poi indossare un foulard di Hermès. Fantastico, ma il sangue scorre copioso. Stuart chiude la telefonata e monta a cavallo. Trotta, galoppa, cade. Frattura scomposta della clavicola. Non potrà più suonare per 3 mesi. È un segno, pensa Gordon, il bassista. Il segno che quest'album non dovrà mai nascere. Sale sul primo aereo e vola in Europa per realizzare il suo sogno jazz, per smettere di essere Gordon e diventare Sting. In my 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi Polaroid racconta le storie di chi è andato a vivere da solo, degli artisti che hanno lasciato il proprio gruppo per diventare solisti. Si è sparato in faccia dopo una pera di eroina. Non c'è più e non ci sarà mai più. Ma la vita continua, cazzo, pensa Dave, e va vissuta come se ogni giorno fosse l'ultimo. Così Dave molla il funerale a metà. La pioggia, i fan, il prete, la gente che piange. Sale sulla sua Mustang con motore Super Cobra e guida 90 miglia all'ora fino a Los Angeles. Affitta uno studio in contanti. Si chiude dentro per 3 giorni e registra 15 pezzi, da solo, suonando tutti gli strumenti. Sarà lui il protagonista del suo futuro, il frontman della nuova band. Gli altri membri saranno solo oggetti non identificati, come quelli che i piloti della Seconda Guerra Mondiale chiamavano Foo Fighters. Last one died. Now I'm looking to the sky. anni di storia della musica si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è di danzare dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a four-letter word when it's hard to control your body to dance. Istantanee di storia della musica. Gli scatti di Polaroid di oggi raccontano le storie dei musicisti che hanno trovato una nuova strada dopo essere usciti dalla band in cui erano cresciuti. Quelli che sono andati a vivere da soli. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. But underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled in being free. Can't you find a little room inside for me? Febbraio 1993, Manchester. È il compleanno di Robbie. Oggi sono 22. Gary, Howard, Mark e Jason gli hanno organizzato una festa sorpresa. C'è la musica, i vecchi amici, tanta figa e ovviamente alcol. Alcol a tempesta. E bamba. Tanta. Altrimenti Robbie non viene. perché quando non la mena con le sue idee assurde sta con la testa ficcata in qualche cesso, in qualche zoccola o russa strafatto su una qualsiasi superficie orizzontale. Robbie è ingestibile, insopportabile, inaffidabile. E infatti a quella festa sorpresa non ci andrà mai. Andrà invece in overdose, la notte stessa. La notte in cui Take That lo cacceranno dal gruppo e lui inizierà la strada per diventare Mr. 70 milioni di dischi venduti. Il signor Robbie Williams. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down. Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, I'm giving it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. Di storia della musica. Oggi Polaroid racconta le storie di chi è andato a vivere da solo, di chi ha deciso di spiccare il volo lasciando la propria band o il proprio duo. 28 giugno 1986, Wembley Stadium, Londra. George e Andrew salgono sul palco davanti a 72.000 paganti. Hanno un'aria strana e gli occhi un po' lucidi. Sanno qualcosa che la gente non sa. Gliela diranno tra poco, così hanno deciso in camerino. Ma prima c'è un concerto da fare. Suonare insieme, a lungo, per l'ultima volta. Come se il tempo non avesse durata, estensione, importanza. 8 ore di live, non stop. Come una maratona. Poi arriva la rullata finale su Wake Me Up Before You Go Go. George e Andrew si stringono in un abbraccio fortissimo, intenso. La storia degli UM finisce qui, annunciano al pubblico. L'ultimo pezzo in scaletta è con Elton John e Simon Le Bon. Gli UM diventeranno un articolo natalizio. È venuto il tempo di George Michael. Well, I guess it would be nice. Istantanee di storia della musica. Thank you. 1975, Londra. Peter non ha scritto nemmeno una parola per il nuovo album. È andato a Hollywood a stendere una sceneggiatura con quell'ebreo, Friedkin, il regista dell'Esorcista. Adesso è tornato, ok, ma passa le giornate in ospedale, accanto alla moglie e alla figlia malata. Non c'è con la testa, non è sul pezzo. I Genesis dovranno fare a meno del suo frontman, Peter Gabriel. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. Questo ragazzino capellone è il cantante numero 400 visionato dalla band per sostituire Peter. Se fallirà anche lui, i Genesis saranno finiti per sempre. Te l'ho detto, è avventato. Ora tutto peggiora. Il ragazzo è la nostra ultima speranza. No, ce n'è un'altra. A meno che qualcuno non metta un microfono davanti a quella batteria e decida di far cantare Phil Collins. Los Angeles. Il tour di Pop Odyssey è andato alla grande. 90 milioni di dollari incassati, tutte le date sold out. Gli NSYNC sono i fenomeni del momento. Ma Justin si sente diverso. I soldi, le macchine, le fighe sono solo il contorno del successo. Lui è un artista. Lui vuole fare musica. Infatti ha mandato un pezzo a Michael Jackson, Gone. Ma l'alieno non gli ha ancora risposto e forse non lo farà mai. Gone diventerà l'ennesimo singolo degli NSYNC e solita trama. Studio, videoclip, concerto. A meno che quel messaggio in segreteria che non ha ancora avuto il tempo di ascoltare non sia proprio di Jaco. A meno che quel messaggio non dica più o meno: Justin, molla gli NSYNC, facciamo un disco insieme. E diventa Justin Timberlake. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you. 1, New York City, incrocio tra settima e 45esima. Davanti alla vetrina di Toys R Us, bambine di tutti i colori osservano le Barbie appena arrivate. È la serie Destiny's Child, edizione limitata. Costano $80 se prendi Michelle o Kelly, 200 se vuoi la Queen Bee. Perché ok che suo padre è il loro manager, ok che sua madre è la loro stilista, ma basta sentirle cantare e guardarle muovere il culo per capire che il futuro ha un solo nome in programma, quello di Beyoncé. Le storie di chi ce l'ha fatta sono come gocce d'olio rimaste a galla su un mare di fallimenti. Non tutti siamo in grado di farcela da soli. Non tutti abbiamo la forza, il talento, il coraggio o la fortuna di meritare il cielo di fulmini della reminiscenza. Per questo ci riuniamo, collaboriamo, creiamo collettivi. Perché è possibile essere unici anche restando nel branco, come dita di una mano, come lupi. In inverno dobbiamo proteggerci, sostenerci a vicenda, nostro padre. Quando cade la neve e soffiano i venti ghiacciati, il lupo solitario muore, ma il branco sopravvive. Ma il branco sopravvive. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had. Halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Polaroid, istantanei di storia della musica, torna domani alle 13. Alle 13. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.